Siamo pronti per iniziare anche questa settimana il momento dell'intervista alla band emergente. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Ebbene sì, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi al Lido Pollo, quindi Rock Revolution on the beach, direttamente da Palermo, gli Edera. Applauso! Grazie. Bene, grazie pubblico, benissimo. Allora ragazzi, buonasera, benvenuti a Rock Revolution. Ciao. Allora, partiamo dall'inevitabile domanda iniziale, insomma la presentazione. Chi vuole presentare tutta la band? Allora, mi presento io, sono Andrea, il chitarrista. Al basso c'è Vincenzo, la voce e chitarra Angelo, e new entry, batteria Alessandro. Alessandro, allora questi sono gli Edera. Parlateci brevemente della band, cioè come nasce l'idea di questo progetto, come mai il nome Edera? Ci dovrebbe essere una spiegazione molto, cioè, come si dice, una spiegazione filosofica, lunga. Però semplicemente ci è piaciuto il nome, l'abbiamo scelto e suonava bene, quindi... Ok, sentite, ma come si è evoluta nel tempo la vostra concezione musicale, il vostro sound? Allora, voi avete iniziato come cover band, allora, oppure direttamente con progetti inediti? Abbiamo una storia un po' particolare, perché all'inizio io e Angelo ci conoscevamo da parecchio tempo, per cui abbiamo cominciato a suonare ovviamente cover, quindi molto tempo fa. Cover di? Pink Vari Floyd, pezzi. Bon Jovi, insomma di tutto, rock sì. Principalmente, fino sì. A quando poi lui, siccome scriveva sempre dei pezzi suoi, avevamo il desiderio appunto di creare qualcosa assieme. Testi scritti in lingua italiana o in lingua inglese? Italiano. Ok, come mai la scelta di italiano? Cioè dici, come mai la scelta di italiano? Dovrebbe essere come mai la scelta di cantare in inglese. Però siccome molte band recentemente insomma cantano in inglese per ragioni melodiche o altro, mi viene da chiedere come mai in italiano. Ma semplicemente perché è la nostra lingua. Noi ci sentiamo orgogliosi di essere italiani, nel bene o nel male. Comunque volevamo esprimere al meglio quello che avevamo, cioè da dire. E certo. Quindi abbiamo scelto di cantare in italiano, esatto. Le canzoni sono tutte anche autoprodotte, immagino, no? Sì. Allora, sono arrivati dei messaggi, quindi mi sposto nella nostra redazione mobile di Rock Revolution. È arrivato un messaggio: forza Edera, siete fortissimi, Marco ed Emanuela che vi salutano, quindi se volete grazie. Fare anche voi saluti, grazie. Bene. Grazie. Allora, tra l'altro potete ascoltarci in streaming ovunque voi siate nel mondo, sappiate che CRM vi raggiunge dal nostro sito crmpiradio.it o dal nostro portale specifico rockrevolution.it, dedicato interamente alle band emergenti e ai progetti nuovi, quindi andate a dare un'occhiata, ne varrà sicuramente la pena. Poi chiaramente c'è anche il nostro canale Facebook, dalla quale potete sempre tenervi aggiornati su tutti quanti gli eventi che organizziamo. Allora, in che genere precisamente potreste inserire il vostro sound? Cioè punk, grunge, pop, metal? E qui parla Angelo, bene. Principalmente... Lo diciamo perché gli amici che ci ascoltano in radio non ci vedono, e quindi dobbiamo anche noi far da cronaca. Capisco. Bene. Principalmente il rock, però non ci piace etichettarci, quindi comunque principalmente è il rock. Rock, che è comunque un'identificazione generale che racchiude poi tanti generi musicali. Bene, ma siete sempre fedeli ai vostri pezzi o di tanto in tanto capita di fare qualche modifica al testo o alla musica? No. Come nascono sono sempre. Magari in qualche cosa, quando le suoniamo, diciamo, dal vivo, comunque cambia anche qualche ritmica, magari più veloce, gli assoli un pochino più prolungati. Per quanto riguarda però il testo, no. Rimane sempre fedele. Ecco, sentivo tra l'altro recentemente in alcuni nostri colleghi in radio che intervistavano gli After Hour, il cantante di After Hour, e diceva appunto che quello che si aspettano generalmente assistendo a un concerto è quello di ascoltare qualcosa di diverso rispetto al CD che si compra, il motivo per il quale insomma si va ad ascoltare la musica dal vivo. Quindi tanto di cappello se voi andate a fare delle modifiche poi durante i vostri live. Direi di andare ad ascoltare subito uno di alcuni pezzi che avete portato. Andiamo ad ascoltare il primo, adesso non ricordo esattamente il titolo, non me ne vogliate. Si intitola Adesso. Volete parlare un po' di questa canzone, di cosa parla? Principalmente parla di una storia d'amore finita. Ecco, le vostre canzoni di cosa parlano? Amore, politica, del sociale? Amore, politica, esperienze personali, di tutto, cioè vita reale. Vita reale. Bene, allora ascoltiamo adesso gli Edera live Rock Revolution, buon ascolto. Yeah. mai pensavo a tutti quei momenti insieme. Ma ho guardato una foto che mi dice che non c'è più quel senso di libertà e di musica. Ma poi mi sono guardato dentro e dentro tutto questo tormento sento di essermi perso. Rock Revolution da Lido Apollo, stiamo trasmettendo questo meraviglioso Lido, questa spiaggia fantastica che tra l'altro tra pochissimo vi darà l'opportunità di ascoltare la musica dal vivo, una cosa rara a Cefalù purtroppo, che potete trovare però per fortuna solo a Lido Apollo sul lungomare a Cefalù. Allora siamo qui con Liedera in questo meraviglioso privé di Lido Apollo per parlare di questo progetto musicale veramente molto interessante che abbiamo conosciuto tra l'altro da poco purtroppo. Ragazzi, quali sono i temi ricorrenti oltre all'amore? Cioè ci sono delle delle canzoni che scrivete anche non soltanto tu, cioè che scrive anche il batterista, il bassista, cioè collaborate assieme nella stesura delle canzoni, dei testi, oppure una cosa singola? No, più che altro risponde Angelo, li scrive Angelo il cantante, il batterista, sì. E la musica come nasce? Cioè tu sei anche musicista oppure soltanto cantante? Sì, anche chitarrista. Anche musicista, quindi ho scritto il testo e la musica. Quindi ti dico la tua chitarrina, fai su due accordi, dici sì, forse ci stanno queste parole. Sì. Nasce prima l'uovo o la gallina, nel senso, prima il testo e poi la musica, o prima la musica e poi il testo? Prima la musica e poi il testo. Prima la musica e poi il testo, effettivamente è più semplice. Sentite, parlateci della vostra strategia creativa, o meglio, il nome Edera, avete un MySpace, penso, no? Avete un indirizzo internet dal quale è possibile ascoltare le vostre canzoni. Sì. C'è qualcuno di voi che lo cura? Sì, abbiamo un indirizzo MySpace, lo cura Andrea, il chitarrista. Sì, l'unico. Vogliamo ricordarlo con l'occasione. Allora, è www.myspace.com/lederamusic. E poi su Facebook ci trovate con Edera Rock. Ah, perfetto. Per cui dalla, insomma, aggiornamenti, foto, eccetera. Musica. Quindi volevo tornare un attimino al discorso della canzone in lingua italiana. Sì. È una scelta anche probabilmente dovuta al fatto che pensate di riuscire meglio a comunicare le vostre emozioni. Sì, sì, assolutamente sì. Che perché in inglese sarebbe, secondo me, sinceramente un po' ridicolo. Perché non essendo comunque la nostra lingua madre, poi magari si rischia di cadere proprio nel... Voi parlate altre lingue? No. Siete poliglotti? No, assolutamente. Non è... Ecco, questa è un'altra giustificazione. L'abbiamo beccato. Non sapete l'inglese, vabbè, volevo... Fregati, va bene, stiamo scherzando. Va bene, allora, se volete fare delle domande alla nostra band, Liedera, scriveteci via SMS, anche qui in spiaggia, la nostra grandissima attrezzatura super tecnologica vi dà l'opportunità di interagire con la band, quindi 335 56 37 251. Oppure su Facebook, oltre a guardare le foto che pubblichiamo in tempo reale, potete lasciare dei messaggi o anche chattare. Allora ragazzi, ascoltiamo il prossimo pezzo, il secondo dei tre che abbiamo questa sera in playlist. Purtroppo soltanto tre, ascolteremo tutta quanta la sera. E si intitola L'attimo. Dopo adesso, questo è il momento giusto per ascoltarlo. Assurdità e le spine delle vere. Matera su CRM Radio all'interno di Rock Revolution Live on the Beach Lido Apollo. Allora arrivano altri messaggi, ragazzi, siete gettonatissimi. Oltre ad essere giovani, adesso poi vi indaghiamo un pochettino. Allora, siete bravissimi, vogliamo sentire Il modo è fuori. Il mondo è fuori. Bye Alessandra, saluti Alessandra. Poi Alessia invece da Catania dice: siete fortissimi, fuck yeah, rock and roll. Questa era, aspetta, chi era? Alessia, Alessia da Catania, che salutiamo. Bene, volete commentare questi messaggi che sono arrivati? Aspetta, dobbiamo accendere il pulsantino del microfono, altrimenti nell'etere non va un piffero. Ecco, vediamo se è acceso il microfono. No, allora il microfono era acceso, però era il cursore che era abbassato. Questo è bello della diretta, è un enigma ogni sera. Allora. Sì, grazie. Ok, perfetto. Sei stato veramente esplicito, grazie, in questo commento, noi ti ringraziamo. Allora, sentite, qual è il brano alla quale vi sentite particolarmente legati, se ce n'è uno, sia dal punto di vista tecnico che emozionale? Allora, sono Alessandro. Alessandro. Il batterista nuovo di questo gruppo. Da quanto tempo suoni assieme a loro e per quale ragione hai deciso di suonare con loro? Ma, sinceramente, quando mi hanno proposto di suonare con loro, e io ho accettato subito, anche perché io provengo da un gruppo che ormai si è sciolto. Uh-huh. Quindi dal caldo, dice, effettivamente. Esatto. Comunque io sono ormai da un mese con loro. Devo dire che mi sono trovato molto bene, anche il genere non è male, mi trovo davvero molto bene. Bene, bene, bene. Sentite, parlateci un po' dei vostri live, delle vostre esperienze. Avete partecipato a qualche contest, qualche festival? Diciamo che abbiamo avuto un percorso un po' complicato, nel senso che comunque il cambio di formazione anche non ci ha permesso di esibirci ancora ufficialmente, però comunque adesso abbiamo in programma nuovi progetti, di partecipare a diversi contest, e comunque ci stiamo organizzando a breve per fare delle serate, per bene. Cui... Allora, tenetevi aggiornati su rockrevolution.it e sulla nostra pagina Facebook per sapere, insomma, cosa accadrà degli Edera prossimamente. C'è un musicista con il quale vorreste collaborare un giorno? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Guarda, abbiamo parlato poco fa con i ragazzi della band, che tra l'altro vi invitiamo ad ascoltare dopo, che ci hanno promesso di bruciare una Gibson bianca alla fine del concerto. E quindi noi saremo qui a guardare, documenteremo tutto quanto per vedere effettivamente come andrà, parlando di Hendrix. Scherzo. Allora, siete attualmente impegnati in un nuovo progetto o ne avete in programma uno per il futuro? Parliamo di Future on the Rock. Allora, in pratica noi abbiamo in mente di mantenere questo progetto, mm-hmm. però ampliandolo. Ci hanno contattato per fare un video, insomma. Ah, che bello, una bella esperienza. Un video, esatto, e poi ovviamente live, comunque anche in di quale canzone nuovi. Il video? Di adesso. Sì. Bene, allora poi ce lo fate vedere, magari lo mandiamo in anteprima su Rock Revolution, sul nostro portale. Sì, sì. Bene. Allora, ascoltiamo l'ultima canzone degli Edera e poi faremo ancora un po' di rock e poi daremo la linea al palco numero uno del Lido Apollo per ascoltare la grande band che si sta preparando per il live. Quindi ancora una canzone, gli Edera, cosa andiamo ad ascoltare di bello? Fatemi sbirciare nella nostra regia da Gianni. Ascoltiamo Mondo, Il mondo è fuori. Sentimenti sono distratte dai tuoi lamenti. Allora, Liedera su Rock Revolution da Lido Pollo, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone, purtroppo l'ultima, e infatti siamo arrivati al momento dei saluti. Ragazzi, prossimi appuntamenti dal vivo ce li farete sapere a breve sul nostro sito o dal vostro canale Facebook, chiaramente, no? Volete salutare e ringraziare qualcuno? Io intanto saluto la mia ragazza, comunque per il sostegno che mi dà sempre. Insomma, la mia famiglia e i miei amici. Bene, poi... Io saluto la mia famiglia, i miei amici e la mia ragazza anche. Anche tu, siete tutti fidanzati, non c'è speranza per le vostre fan. Vabbè. Io no, quindi saluto voi. Ecco, allora dai il numero di telefono in diretta. No, vabbè, lo facciamo un'altra volta. Saluto voi e vi ringrazio. Grazie caro, e poi abbiamo anche il batterista, giusto? Il batterista. Io saluto la mia famiglia, Christian, Vale e Marco. Una cosa al volo, volevo ringraziare soprattutto voi che ci avete dato la possibilità di fare questa intervista e di trasmettere comunque i nostri pezzi alla radio. In radio, grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro musicale, in bocca al lupo per tutto quanto, insomma, in generale, ci aggiorniamo presto, va bene? Buona serata a Lido Pollo, avete modo di ascoltare un po' di musica dal vivo se avete il tempo e la voglia.